Plus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente torneremo a occuparci del, non tanto delle quattro banche, ma anche del botta e risposta che continua a esserci a livello sia politico, è innegabile che la questione abbia assunto contorni politici, e anche di confronto tra istituzioni. Segnalo un'intervista di oggi del numero uno della Consob, Vegas, il quale dice insomma il governo ci ha tenuto fuori da questo decreto, e segnalo anche che la linea arrivata pure nel fine settimana dalla Banca d'Italia è la linea noi abbiamo fatto al nostro meglio tutto il possibile. Ora dico subito, così chiariamo, che se le autorità di vigilanza, Banca d'Italia in primis e anche Consob, devono rispondere abbiamo fatto tutto il possibile, va benissimo, però c'è qualcosa che non funziona, nel senso che di fronte a questo o si dice chiaramente che la colpa è tutta del governo, non aver avuto la forza, ma il governo risponde che c'erano già dei vincoli europei di andare a porre la questione a livello politico ed europeo, oppure prudenza vorrebbe, anche un po' di modestia a mio avviso, ammettere che qualcosa non ha funzionato, cioè non basta dire bisognava vietare i prodotti allo sportello, abbiamo operato, la vigilanza ha dato nel caso della Banca d'Italia le multe e ha messo in guardia, qualcosa non ha funzionato. Allora l'approccio dovrebbe essere, bene, ci rendiamo conto che forse le deleghe, chiamiamole così, che hanno Banca d'Italia e Consob vanno a sovrapporsi, bisognerebbe avere un'unica autorità di vigilanza, insomma prendere atto che in questo modo siamo di fronte a un altro scandalo bancario. Faccio notare che ci sono altre 9 BCC a rischio, poi le ricorderemo magari, che poi al 1 gennaio si va, entra in vigore la legge che trasforma le popolari in SPA, quindi si andrà verso le fusioni, che c'è una vicenda molto diversa ma che preoccupa molto, ossia Popolare di Vicenza e Veneto Banca sulla pratica di chiedere a chi voleva avere un fido bancario o un mutuo la sottoscrizione di azioni che poi non erano negoziabili perché i titoli non erano quotati. Stiamo parlando in quel caso di azioni, non di obbligazioni subordinate. Ma insomma si rischiano nuovi attacchi su questo, e dire semplicemente noi abbiamo fatto il possibile, allora vuol dire che così come siete fatte non andate bene. Cioè, nel senso, se uno, qualunque manager che si trovasse di fronte a una situazione del genere e dovesse rispondere ma noi abbiamo fatto il possibile, qualcuno gli dice bene, allora a questo punto evidentemente non sei la persona giusta. Io non voglio dire arrivare a questo, dico semplicemente che la risposta è stata molto molto difensiva, sia di Banca d'Italia sia di Consob, a mio avviso anche un po' leggermente arrogante nei toni. Poi c'è la vicenda politica, e quindi non quella che riguarda i risparmiatori ma quella che riguarda lo scontro politico su questo, le tensioni, non solo tutto il dibattito politico si sta concentrando sulla figura del padre del ministro Boschi. Faccio notare che se uno dovesse andare su questo tema forse sarebbe più da mettere in evidenza la figura del fratello del ministro Boschi, che aveva assunto anche, diciamo, la relazione sulla centrale dei rischi, sui rischi nei prestiti, quindi le sofferenze. Molti fanno notare come sia stato possibile che già sanzionato come membro del consiglio di amministrazione abbia accettato di fare vicepresidente con la figlia già ministro, però al di là della vicenda Boschi, che è una vicenda in cui chiaramente c'è anche una lotta politica, qui il problema è che non sfugge a nessuno che siamo di fronte al primo vero caso di carattere che assume anche il contorno politico, intoppo, passo falso, scivolone, chiamatelo come volete, del governo Renzi, che risponde oggi anche all'interno della legge di stabilità con varie dichiarazioni, però insomma non sfugge, e quindi una nota politica la faremo anche su questo. Poi c'è la vicenda legge di stabilità, anzi partiremo da quella, nel senso che gli emendamenti ci sono stati e ne abbiamo dato notizia anche ieri. Oggi altre novità negli emendamenti che riguardano la no tax area sulle pensioni fino a 8.000 euro. Una no tax area sulle pensioni a 8.000 euro dal 2016. E poi lo stop del conguaglio sul caro prezzi sulle pensioni. Alcune novità minori sul leasing della casa o sui camper, la rottamazione dei camper, gli asili parificati e cose che invece sono uscite, per esempio il fondo, lo sconto IRES salta, non ci sarà lo sconto di 3 punti percentuali ipotizzato nella prima stesura dell'IRES per il 2016, un calo legato al riconoscimento della clausola migranti da parte dell'Unione Europea, la norma viene cancellata da un emendamento del governo che sostituisce questa misura con interventi per potenziare la sicurezza e favorire la cultura, il famoso euro speso per la sicurezza a cui si affianca un euro speso per la cultura. Varie novità, adesso vi arriveremo, e poi la vicenda Pininfarina. Allora, dico subito una cosa. Il titolo chiaramente subirà, è atteso nelle cose, un crollo dopo l'operazione. Che cosa è successo? È successo che meno 50% del titolo si giustifica in un modo molto semplice. Oggi si è avuta notizia che Pininfarina sostanzialmente meno 62%, stavo controllando adesso il titolo, a 1,58 euro. Sostanzialmente la Pininfarina ha raggiunto un accordo con l'indiana Mahindra per cui verrà ceduta per quasi 25 milioni di euro una quota con una valutazione delle azioni a 1,10 euro, quelle detenute da Pincar. Ecco perché le azioni che valgono ancora 1,58 euro si adegueranno al prezzo, per un totale di quasi 25 milioni. Le azioni saranno liberate dal pegno delle banche e poi Mahindra lancerà un'offerta pubblica sulle azioni rimanenti al prezzo di compravendita di quelle detenute da Pincar, quindi lo lancerà a 1,1 euro per azione. Resterà quotata a Milano e ha detto Paolo Pininfarina: questa operazione ci permetterà di pensare al futuro e quant'altro. Dico subito che nelle operazioni di questi ultimi anni in cui fondi sovrani o grandi gruppi hanno acquisito marchi di prestigio italiani, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è stata la cosiddetta fuga del marchio all'estero, anzi ci sono stati investimenti per potenziare e valorizzare questi marchi. Lo dico perché non si può essere da un lato lamentarsi che mancano gli investimenti stranieri, poi quando arrivano investimenti stranieri lamentarsi che stiamo svendendo il paese. La storia recente ci dimostra che gli investimenti fatti sia, ripeto, da fondi sovrani che da grandi gruppi nel settore lusso, ma non solo, hanno puntato a valorizzare questi marchi, cioè nessuno mette i soldi per perderci. Vedremo se sarà così anche nella vicenda e con Pininfarina. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto che parlavo di Pininfarina e del crollo assolutamente atteso, visto il prezzo a cui ha venduto la famiglia il crollo delle azioni, partiamo subito dalla borsa. Che non va bene, ma devo dire, non che questo faccia mal comune mezzo gaudio, che è assolutamente in linea con le altre borse europee. Perde il 2% Milano, il 2% lo perde anche Francoforte, l'1,60% Parigi, Londra fa un po' meglio, meno 1%, Dow Jones meno 0,60%, euro su dollaro in rafforzamento a quota 1,10 nei confronti del, appunto, l'euro nei confronti del dollaro. Sarà contento chi va negli Stati Uniti in queste vacanze per svago, non per lavoro. Cresce comunque l'attesa per la riunione della Federal Reserve di domani. Tra i titoli partiamo da chi perde di più: Fiat Chrysler, che cede il 5,40%. Oggi si è saputo che la quotazione di Ferrari nel frattempo partirà sul listino milanese dal 4 gennaio prossimo. dicevo, Fiat male, anche Steam Microelectronics meno 4%, Boots Unice meno 3,70% come il Monte dei Paschi, Unicredit perde il 3%, Unipulsai perde il 2,80%, Finmeccanica il 2,70%, Azimut meno 2,60% come Enel ed Eni, il 2,5% lo perde Prismian e anche Enel Green Power e Mediolanum, il 2,30% il calo di Campari, il 2% quello di Banco Popolare di Generali, l'1,80% quello della controllante del gruppo Fiat Exor. Bene invece A2A, si avvicina l'aggregazione con Linea Group, più 2%, Ubibanca più 1,40%, Iux più 0,60%. Se vogliamo, la notizia è che a fronte di quello che sta capitando sul mondo bancario, il mercato non va a vendere in maniera irrazionale e emotiva. Sì, c'è una flessione dei titoli anche delle banche popolari, ma non sono i peggiori, per esempio. È il peggiore Monte dei Paschi tra i titoli bancari, meno 3,70%, Unicredit meno 2,80%. Come alcuni stanno facendo l'esempio di cosa capitò con Cirio, Parmalat. Sì, assistiamo allo stesso un po' gioco. Con Parmalat, se ricordate bene, saltarono 7 livelli di controllo, dal consiglio di amministrazione ai sindaci, ai revisori di conti, alla Consob, alla Banca d'Italia. Insomma. Eppure anche allora, no, la colpa non era solo di Tanzi, che per carità aveva delle colpe enormi, è stato anche condannato. Vale anche per Giacomelli, Banca 121, Ciro, con tutte le differenze. Insomma, ripeto, è proprio una questione anche di stile. Continuare a dire abbiamo fatto il possibile, non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo operato al nostro meglio, uno resta, dice, vabbè, allora evidentemente così come sei fatto non servi. Cioè, se io devo portare estreme conseguenze questo ragionamento, che chiaramente sono estreme ed è una provocazione, devo dire vabbè, ma se tu non riesci a controllare questo e il commissariamento non serve, hai fatto tutto il tuo meglio, bisognerà ripensare all'autorità di vigilanza. Oppure si dice che tutto il problema nasce da un decreto del governo che è stato fatto male, è stato fatto in urgenza, è stato fatto senza valutare le conseguenze, tant'è che il governo stesso è rimasto spiazzato dalle reazioni lì per lì. La vulgata era: abbiamo evitato che venissero toccati i conti correnti, cosa che sarebbe successo dal primo gennaio col bail-in. Non ci si è accorti probabilmente che in questo caso non si trattava semplicemente, come nelle obbligazioni argentine, di risparmiatori che avevano ceduto all'avidità ed erano andati a prendersi rendimenti altissimi fuori mercato con un rischio ben chiaro. In realtà erano state piazzate e collocate in maniera, da quello che sta emergendo, non trasparente, non chiara. Ecco perché poi l'arrabbiatura degli obbligazionisti, delle subordinate. Devo dire, sì, questo scandalo impallidisce, sembra più simile a Italease, scrivono alcuni, ok, va bene. Devo dire che forse il governo avrà qualche informazione in più, poteva assumerla sul modo, perlomeno sulla Popolare dell'Etruria, diciamo che qualche fonte ce l'aveva su come erano state collocate queste obbligazioni. Altre notizie su questo, vabbè, oggi è tornato a parlare, partiamo dal petrolio. Il petrolio è calato sotto i $35 per la prima volta dal 2009. Non c'è alcuna possibilità che Teheran rinvii il suo piano, ha detto il vice ministro del petrolio iraniano Zamaninia, il piano appunto di immettere maggior petrolio sul mercato, aumentare le esportazioni con la fine delle sanzioni. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, le scorte di greggio aumenteranno probabilmente di 300 milioni di barili quando l'Iran aumenterà le esportazioni, e il petrolio, che viene venduto sempre come future, quindi come prezzo futuro, ne prende atto. Ancora, tra l'altro, per quello che riguarda il mondo del petrolio, secondo quanto riporta oggi la BBC, la Shell starebbe per tagliare 2.800 dipendenti se andrà in porto il progetto di fusione con BG Group, da cui è arrivato oggi l'ok della Cina. si tratterebbe di tagli aggiuntivi rispetto ai 7.800 tagli già annunciati a luglio. Secondo alcuni, comunque, l'operazione tra Shell e BG non avrebbe senso, visto il petrolio ampiamente sotto i $40 al barile, ma tant'è. Economia europea. Oggi è intervenuto il ministro delle finanze tedesco Schäuble, parlando al congresso della CDU, ha detto, ha replicato esplicitamente le accuse del vice cancelliere Sigmar Gabriel. Il ministro socialdemocratico infatti aveva accusato Angela Merkel di essere responsabile del rafforzamento del Front National in Francia a causa del diktat del risparmio imposto alla Francia. Schäuble ha negato: non è vero che la nostra politica finanziaria ha rafforzato Le Pen. Ma in realtà, secondo me, visto che parliamo anche della vicenda delle banche, Schäuble dovrebbe chiarirci una cosa una volta per tutte. È vero, ma quello è vero per forza, che la Germania ha aiutato le sue banche con aiuti di Stato, poteva farlo in quel tempo, per 248 miliardi, ma è anche vero che l'intera operazione greca, e quindi i soldi che l'Italia stessa ha messo sulla Grecia, hanno permesso alle banche tedesche ampiamente esposte verso i greci, che a quel tempo non erano brutti e cattivi, di rientrare dalla loro esposizione, caricando sulla collettività l'esposizione delle banche tedesche verso la Grecia. Lo dico perché tutto il principio fondante del bail-in, che è anche condivisibile se vogliamo, è che non bisogna più che la collettività, gli stati, paghino per gli errori delle banche. Anche adesso la lezione che bisogna dare all'Italia sta sullo stesso principio. Non è giusto, non vogliamo dover pagare noi per le cattiva gestione delle banche italiane o spagnole o greche o quant'altro. Bene, a noi risulta che l'intera operazione greca, e quindi i fondi dati anche dall'Italia, e sono parecchi miliardi, abbiano permesso alle banche francesi, ma poi tedesche, di rientrare dalla loro esposizione. Ora, cerchiamo di capirci, perché questo potrebbe essere anche un elemento per il governo italiano, per poter dire: scusatemi, però con la Grecia abbiamo rifatto lo stesso giochetto, quando in mezzo c'erano le banche tedesche. Di fatto le banche tedesche hanno trasferito la loro esposizione verso la Grecia dalle banche agli stati, inclusa l'Italia. Allora, Schäuble, perché non ci parla mai di queste cose? Mai. Oggi invece ha parlato Mario Draghi al convegno per i 40 anni di Prometei a Bologna, ha detto: non c'è nessun dubbio che la Banca Centrale Europea, se servirà, interverrà ancora. Gli strumenti messi in campo dal giugno del 2014, in particolare il programma di acquisto di attività di titoli privati e pubblici, avviato nel settembre dello scorso anno e ampliato nel gennaio di quest'anno, stanno determinando gli effetti voluti. Dopo quella che abbiamo chiamato ricalibrazione dei nostri strumenti, attuata questo mese dal Consiglio direttivo, ci attendiamo che l'inflazione raggiunga il nostro obiettivo senza indebiti ritardi. Ma continuiamo a osservare attentamente gli andamenti delle condizioni economiche e finanziarie. Come ho avuto modo di dire in occasione dell'ultima riunione del Consiglio e anche più recentemente, non c'è dubbio che se dovessimo intensificare l'utilizzo dei nostri strumenti per raggiungere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi, lo faremo. Allora, Draghi ha anche accennato, non ha parlato direttamente del caso italiano, ha anche accennato alle imprese non sane e i prestiti deteriorati che vanno smaltiti rapidamente, sono le famose sofferenze. Ne parleremo dopo, quando avremo l'approfondimento sulla vicenda delle quattro banche. Invece vi faccio ascoltare un altro passaggio dell'intervento di Draghi a Bologna, e riguarda gli sforzi della BCE non sufficienti senza le riforme dei paesi. L'efficacia della nostra politica monetaria dimostra che la BCE dispone di tutti gli strumenti idonei a cogliere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi e quindi a sostenere la domanda. Nell'ambito del nostro mandato non abbiamo vincoli che limitino la nostra scelta di quali strumenti utilizzare o il modo di impiegarli. Possiamo sempre portare l'inflazione al nostro obiettivo, dobbiamo farlo e lo faremo. Ma la politica monetaria non può e non deve essere l'unico strumento. Da un lato, i rischi di una politica monetaria molto accomodante per molto tempo devono essere affrontati con gli strumenti macroprudenziali più appropriati. Dall'altro lato è chiaro che vi sono altri strumenti di politica economica che possono aumentare l'efficacia della politica monetaria stessa nel chiudere quello che chiamiamo l'output gap. In passato i ristretti margini a disposizione per l'impiego della politica fiscale hanno aggravato, hanno reso più pesante l'onere posto sulla politica monetaria. Oggi le due politiche appaiono sotto questo profilo più coerenti. In altre parole, la politica monetaria trae benefici se le altre politiche fanno la loro parte nei loro ambiti di competenza. Allo stesso tempo, nella misura in cui essa ha successo nel sostenere la ripresa ciclica, ne risulta agevolato il varo di politiche strutturali che possono incontrare più forti resistenze in un contesto macroeconomico debole. Per l'area dell'euro ciò significa che bisogna compiere ulteriori passi, oltre che sostenere la domanda, per contrastare gli altri due fattori che frenano gli investimenti, l'eccessivo accumulo di debito e la fragilità della fiducia. Le riforme strutturali sono chiaramente parte essenziale della questione. Quanto mi piace l'italiano di Mario Draghi, così visto che dico sempre che mi piace l'inglese, anche l'italiano non è male. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, visto che me lo chiedete, darò la lista delle 16 banche commissariate da Banca Italia, in realtà le 12, perché 4 le conosciamo ampiamente: Etruria e Lazio, Ferrara, Chieti e Banca Marche. Così intanto l'abbiamo data, queste sono le banche commissariate, poi ognuno andrà a valutare se ha delle obbligazioni subordinate, ammesso che le abbiano emesse, di queste banche, o le hanno fatto comprare azioni o quant'altro. Però partiremo dalla legge finanziaria perché ci sono novità, e poi arriveremo alla borsa Pininfarina e alla vicenda tra il, diciamo, finanziario e risparmio e politica delle quattro banche. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Allora, andiamo con ordine. Prima cosa, le 16 banche commissariate dalla Banca d'Italia, oltre alle 4 mai famose. Lo dico, chi è in ascolto, così prenda nota: la BCC, BCC vuol dire Banca di Credito Cooperativo, di Terra d'Otranto, l'Istituto per il Credito Sportivo, la Cassa di Risparmio di Loreto, la Popolare dell'Etna, la Popolare delle Province Calabre, la Banca Romagna Cooperative, la BCC Irpinia, la Banca Padovana, la Cassa Rurale di Folgaria, il Credito Trevigiano, la Banca Cascina e la Banca Brutia. Ora, il che vuol dire? Andate a vedere le notizie, se siete azionisti andate a chiedere, se non so quante di queste abbiano, se hanno emesso obbligazioni subordinate. Questa è la lista. Oh, prima di arrivare a Dino Pesole e parlare della legge di stabilità, oggi c'è un'altra notizia che riguarda il nostro paese. L'inflazione a novembre si conferma allo 0,1%, il tasso di inflazione rallenta, su base mensile meno 0,4%. 11 grandi città sono in deflazione, nonostante la ripresa dei consumi. Da Aosta a Palermo con tasso sotto zero, la riduzione più forte si registra a Bologna, però meno 0,7%. Poi Padova, Palermo, Catania, Perugia, Cagliari, Bari, Verona, Venezia, Modena e Aosta. L'indice dei prezzi del calo della spesa è salito dell'1,3% a novembre, con una comunque differenza sempre stabile rispetto all'indice complessivo. Quello del calo della spesa registra la variazione dei prezzi dei beni più acquistati. Siccome c'è una novità in finanziaria anche sull'inflazione per quello che riguarda i pensionati, buona per i pensionati, lo anticipo, ascoltiamo intanto i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, proprio sull'inflazione, a firma del vice direttore oggi Alberto Orioli. Engie fa volare la tua impresa. Due volte leggero è l'offerta elettricità e gas che riduce il prezzo dell'energia ogni 8 mesi. Scoprila su engie.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'inflazione resta sempre inchiodata a poco sopra lo zero e ben 11 capoluoghi di provincia sono formalmente in deflazione, vale a dire nella condizione di prezzi continuamente calanti, perché i consumatori non fanno acquisti, non avendo fiducia nel futuro e aspettandosi quindi un ulteriore calo dei prezzi stessi. A novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registrato dall'Istat è diminuito dello 0,4% sul mese precedente, registrando invece un aumento dello 0,1% su base annua, cioè sul novembre 2014. Ciò che conta, come spiega sempre l'Istat, è che per quest'anno la previsione di inflazione acquisita è a più 0,1%. In sostanza l'Italia è un paese dove l'economia ancora non gira, come dovrebbe, e i consumi non sono in ripartenza. A novembre ha pesato soprattutto l'arretramento nei servizi culturali e ricettivi e per la cura della persona, che sconta un crollo per alberghi e ristoranti. Sono in fase di decelerazione anche i prezzi dei beni alimentari non lavorati, cioè i prezzi delle materie prime alimentari. E sono ben 11, come si diceva, le città in deflazione, con tassi di incremento inferiori allo zero, sempre registrati a novembre. La riduzione più forte si registra a Bologna con un meno 0,7%, seguita da Padova meno 0,4%, da Palermo sempre meno 0,4% e da Catania meno 0,3%. Poi arrivano Perugia, Cagliari, Bari, Verona, Venezia, Modena e Aosta. Bolzano e Genova invece sono le città dove l'inflazione ha dato un modesto segnale di risveglio con un più 0,5% rispetto a novembre 2014, seguono poi L'Aquila e Napoli, insomma non è ancora purtroppo la fotografia di un'Italia ripartita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vediamo le novità della finanziaria e ringrazio Dino Pesole per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera. Come sono vecchio, io la chiamo ancora finanziaria, si chiama legge di stabilità. Partiamo proprio dalle pensioni, perché la legge ha stabilito da un lato lo stop al conguaglio sul calo prezzi, siccome le pensioni si adeguano all'inflazione, c'era il rischio, se ho ben capito, di una minor crescita, quindi non ci sarà il recupero della minor crescita dei prezzi del 2014, cioè che il governo avrebbe chiesto dei soldi indietro, la spiego male, poi arrivi tu. Legge di stabilità, no tax area sulle pensioni a 8.000 euro dal 2016 e poi anche il leasing immobiliare e la rottamazione dei vecchi camper, questo le posso dire io, nel senso che la casa sarà come l'auto, cioè sarà possibile riscattare la casa e comprare la casa come avviene con il leasing dell'automobile, alla fine del leasing l'immobile si potrà comprare, 5.000 euro per la rottamazione dei vecchi camper per chi compra un veicolo Euro 5, 3 milioni di euro in più per elementari e gli esili parificati, anche 9 milioni in 3 anni per i collegi universitari di merito. Invece salta lo sconto dell'IRES nel 2016, il fondo di solidarietà ha risorse per 100 milioni, quello per le quattro banche salvate, le banche, non i risparmiatori, e poi sgravi fiscali per le banche in crisi che saranno sottoposte al bail-in dal 2016, ma anche per quelle che aderiscono al fondo di risoluzione. 2 miliardi e mezzo per il fondo di risoluzione unico previsto dal decreto salvabanche è l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, prevista anche la norma che agevola gli istituti che contribuiscono e consentono appunto di evitare la penalizzazione dovuta al previsto calo dell'IRES. Sterilizzato l'IRES per di 3,5 punti percentuali dal 2017 per consentire alle banche la piena deducibilità. Quindi, se posso dare un titolo un po' provocatorio, niente IRES per le imprese, qualche vantaggio per le banche e i pensionati. Dino, a te la sintesi. Sì, questa è una delle sintesi possibili, qualche novità positiva lo anticipavi, c'è senz'altro per i pensionati, in particolare viene anticipato al 2016 l'incremento della cosiddetta no tax area, che è quell'area per la quale poi alla fine c'è esenzione dal pagamento delle imposte. In particolare viene deciso che per gli over 75 l'area di questa esenzione fiscale salga a 8.000 euro, prima era 7.500. E poi l'altra modifica inserita con un emendamento del governo al disegno di legge di stabilità, che è in discussione in queste ore alla Camera e che probabilmente dovrà essere ancora per un giorno esaminato dalla Commissione Bilancio, perché ci sono moltissime ancora questioni da definire, riguarda appunto i possibili effetti della deflazione sull'adeguamento delle pensioni al costo della vita. In sostanza si stabilisce che le pensioni non saranno ridotte, cioè in sostanza non saranno recuperati gli effetti del 2014 con il conguaglio di quest'anno, che invece si detta al 2016. Piccole cose, è chiaro, stiamo parlando di somme non particolarmente significative, però quantomeno che ci sia la certezza che gli importi pensionistici non verranno diminuiti per effetto di questa gelata che c'è sul fronte dei prezzi. E poi ci sono tantissime altre. Ecco, ci puoi spiegare un attimo, perché le agenzie non aiutavano. Arriva da un lato il fondo di solidarietà per 100 milioni per le banche, va bene. Sì. Poi c'è il tema degli sgravi fiscali alle banche che aderiscono al fondo, e il finanziamento ponte 2 miliardi e mezzo per il fondo di risoluzione unico previsto dal decreto salva banche. Questo, da quello che ho capito io, insomma, serve per la parte del fondo salva banche. Comunque, che cosa arriva al mondo bancario? Beh, certamente questo è necessario, perché come sappiamo il cosiddetto decreto salva banche, stiamo parlando del primo provvedimento con cui il governo ha provato a far fronte a carico interamente del sistema bancario. Sì, questo vale la pena ricordarlo, perché noi diciamo salva banche e governo, come ci ha detto anche Luigi Abete, presidente del BNL, la settimana scorsa in diretta, veramente queste quattro banche le ha salvate il mondo bancario, nel senso che hanno utilizzato una fetta importante di tutte le risorse che avevano per avere questo prestito ponte che permettesse di creare la bad bank, la banca cattiva da una parte, la banca buona da risanare dall'altra, cioè la nuova Banca Marche, la nuova Popolare Etruria, la nuova Chieti, la nuova Ferrara. Esattamente, poiché questo decreto, che la cui conversione sarebbe ovviamente avvenuta entro i 60 giorni di vigenza e quindi a gennaio, non arrivava in tempo, il governo ha deciso di inserirlo tout court nella legge di stabilità o legge finanziaria, come vogliamo chiamarla, stessa cosa. E dunque questa è una buona cosa, perché evidentemente si ha la certezza che queste norme vengano approvate entro il 31 dicembre e quindi entrano in vigore assolutamente il 1 gennaio. Quindi questo è fondamentale, perché sennò non si capiva bene dove andassero a finire. E poi c'è il discorso appunto dei 100 milioni che sono stati inseriti anch'essi con un emendamento sabato scorso approvato dalla Commissione Bilancio, ora deve andare all'esame dell'Aula, ma non credo che ci siano problemi da questo punto di vista, che dovrebbe appunto costituire il primo paracadute per i risparmiatori che hanno sottoscritto queste famose obbligazioni subordinate. Non è sufficiente, come sappiamo, ma a questo punto è ben difficile che il governo riesca a incrementarlo almeno di tre volte quanto servirebbe, perché c'è un problema di fondo, e che il governo ha deciso di incrementare il deficit, forse questo certo, è un po' sfuggito, però l'ha fatto non solo a Bruxelles, dice. Non solo l'ha incrementato dall'iniziale 1,4 al 2,2, perché ha utilizzato delle cosiddette clausole di flessibilità che peraltro ancora non sono state formalmente autorizzate. E anche questo ha fatto arrabbiare Bruxelles. Poi? Ha fatto arrabbiare. E dopodiché, poiché è stato inserito in legge di stabilità anche un ulteriore pacchetto di circa 3 miliardi per la difesa, per la sicurezza e per la cultura. Ad esempio, dico un caso, l'estensione del bonus di 80 euro anche alle forze dell'ordine è un segnale. Tutto questo costa circa 3 miliardi e dunque il governo ha deciso di sua iniziativa di incrementare ulteriormente al 2,4 il deficit. Dunque qui bisogna stare un po' attenti, perché poiché a marzo o aprile la Commissione europea dovrà dire la sua sulla legge di stabilità, potrebbe eccepire. Quindi, insomma, è un terreno un po' complicato, un po' scivoloso, anche perché francamente l'ipotesi che il governo non riesca nel prossimo anno a conseguire un tasso di crescita dell'1,6 si fa sempre più concreto. Guardiamo le notizie oggi, ne parlavi prima, sull'inflazione, sono molto preoccupanti. Certo, può aver avuto un effetto anche la paura, l'incertezza per l'emergenza terrorismo, però obiettivamente che ci siano 11 città in deflazione non è proprio una buona notizia. Quindi se per caso nel 2016 non si farà la crescita stabilita dal governo, ci sarà più deficit ancora, quindi bisogna stare un po' attenti, perché non è poi semplicissimo. Sì, vedremo poi cosa risponderà l'Europa. Comunque, per salutarti, Dino Pesole, non dovrebbero esserci più modifiche dopo questi emendamenti, perché il 15 va alla Camera, no? La legge di stabilità. Esatto, il Presidente della Commissione Bilancio l'ha proprio qualche minuto fa chiesto ufficialmente, al Governo e alla Presidenza della Camera un ulteriore slittamento di 24 ore, quindi è probabile che mercoledì comincino le votazioni in aula e dunque probabilmente entro la fine della settimana, inizio della prossima, verrà approvata, andrà in Senato per l'ultima lettura, e a questo punto secondo me entro una settimana dovrebbe essere certo. non prevedo ulteriori novità, no. grazie a Dino Pesole. Ho il traffico. Focus Economia. Allora, una rettifica, ha ragione l'ascoltatrice che ci dice, guardate che tra le 16 banche commissariate da Banca Italia non c'è più il credito trevigiano, e in effetti è uscito dal commissariamento e è tornato alla gestione ordinaria a inizio novembre. Poi, tutto bene, leggetevi la stampa locale a partire dal Gazzettino, perché non è che siano così entusiastici i racconti sullo stato di salute del credito trevigiano, ma detto ciò, è verissimo che non è più commissariato. Confermo la cassa di risparmio di Loreto. Sì, non so perché alcuni me lo chiedono, ma è commissariata. Ma questo anche per evitare di andare da grandi banche sane con un tier one, cioè con un patrimonio, con il fieno in cascina solido, a chiedere cosa succede alle mie obbligazioni subordinate. Ripeto, se dovessero saltare le grandi banche di questo paese con tutti i titoli di Stato che hanno in pancia, salta il paese, quindi è inutile ragionare cosa succede alle mie obbligazioni. Poi altra cosa è se una delle banche meno visibili e soprattutto meno solide e vuole informarsi, allora era giusto ricordare le 16 banche, sono 12 più le 4 ormai stranote, commissariate dalla Banca d'Italia. La borsa, oggi la borsa si chiama soprattutto Fiat Chrysler meno 5% e Pininfarina meno 68%. Ciao Condi, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dammi un commento complessivo, perché oggi l'attesa è tutta sulla Federal Reserve di domani, meno 2,42% Milano, meno 1,90% Francoforte, meno 1,70% Parigi, l'America meno 0,50%. Commento complessivo e Fiat Chrysler. Allora, borse che sono state negative un po' per tutta la giornata. Sembrava recuperassero con l'avvio positivo di Wall Street, e poi anche Wall Street ha girato, hanno chiuso sui minimi con le performance che tu hai appena detto. Pesa sicuramente l'attesa per la Federal Reserve, che inizia domani, si conclude mercoledì, e che di fatto potrebbe porre fine a un'era di politica monetaria accomodante. Diciamo che i mercati un po' temono quello che potrebbe comunicare la Fed mercoledì. Per quanto riguarda Fiat Chrysler, è stata la peggiore del listino di Milano, meno 5%. Oggi è stata annunciata lo sbarco di Ferrari a Piazza Affari per il 4 gennaio, è stato confermato anche il rapporto di conversione tra azioni Fiat e Ferrari. Non ci sono spiegazioni particolari per questo titolo, per questo crollo, comunque c'è da registrare che un po' tutti i titoli a grande capitalizzazione hanno fatto segnare delle performance veramente pesanti, Monte dei Paschi ha perso il 4%, Finmeccanica il 3,3%. Ma non c'è un motivo dietro questo, perché STMicroelectronics meno 4,70%, appunto, Buzzinice meno 4,5%, Monte dei Paschi meno 4,15%, Moncler meno 3,60%, Finmeccanica meno 3,30% come Azimut e Unicredit, ed Enel, Prismian meno 3,20%, Mediolanum un meno 3% come Unipolsai ed Eni. Chiudo con Enel Green Power, che ha perso il 2,80% come il Banco Popolare e Campari, Generali meno 2,60%, Exor meno 2,40% come Anima Holding e Luxottica, la Popolare di Milano, no, non chiude in realtà, perché Tenaris ha perso il 2,30% come Mediaset, Mediobanca il 2,20% e la Popolare Emilia Romagna il 2% come Snam. Intesa San Paolo ha perso l'1,80%, positiva A2A più 1,80%, Ubibanca più 0,80%. C'è un motivo particolare o no? E a questo punto Fiat e A2A, poi arriviamo a... Sì, diciamo per quanto riguarda 2A c'è sicuramente forte attesa. Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per l'acquisizione della Lombarda Linea Group. Insomma, i mercati scommettono su questa operazione che ormai è in cantiere da mesi, scommettono in modo positivo perché il titolo cresce in controtendenza. Per tornare a Fiat, no, non ci sono motivi particolari, forse qualche ultimo aggiustamento per quanto riguardava la conversione, l'assegnazione di azioni Ferrari a Fiat, ma tutto è stato confermato, quindi sostanzialmente non ci sono motivi particolari. Per quanto riguarda Pininfarina, Pininfarina ti fermo perché abbiamo un approfondimento, non perché non voglio la spiegazione, abbiamo un approfondimento apposito sull'operazione e il titolo si sta adeguando all'offerta arrivata dagli indiani, o meglio al prezzo a cui hanno venduto agli indiani. 1,1 euro, è sceso del 70% oggi, 68,8% a 1,31 euro. Grazie a Ciao Condina, dopo il GR24 Pininfarina e l'aspetto più politico di scontro istituzionale nella vicenda delle banche tra virgolette salvate. In questi giorni di festa, Radio 24 ti augura buon ascolto, buona informazione, buon divertimento, ma soprattutto buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la vicenda Pininfarina, ripeto, non deve sorprendere che il titolo crolli del 68,8% a 1,31 euro, quando l'annuncio di oggi è che la famiglia ha venduto la sua quota per un valore dell'azione di 1,1 euro, e poi gli indiani lanceranno un'offerta pubblica, Mahindra, per il restante delle azioni. Siamo in collegamento con Filomena Greco del Sole 24 Ore. Filomena, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera a voi. Allora, atteso, dicevo, il fatto che ovviamente si vada a vendere e ci si riposizioni sul valore che poi sarà quello dell'offerta pubblica di acquisto. Sì. Chi sono gli indiani di Mahindra e anche le motivazioni di questa cessione e il valore? Sì, sono un gruppo globale da circa 17 miliardi di euro nel suo complesso, Mahindra Group. Producono anche auto, sono anche attivi insomma nell'automotive, hanno una società in Corea, tanto che il rapporto diciamo fra Mahindra e Pininfarina nasce all'origine come un rapporto commerciale, insomma, da cui poi si è sviluppata una partnership che ha portato all'acquisizione di oggi. Un'acquisizione dettata da una ristrutturazione profonda del gruppo Pininfarina, che affonda insomma le sue radici una decina di anni fa. Ecco, quello è il punto di inizio di un percorso complesso dal punto di vista finanziario, di riorganizzazione e di ristrutturazione industriale. Paolo Pininfarina, il presidente, l'ha definito un passaggio nel deserto, 10 anni difficili, insomma, un vero e proprio passaggio nel deserto, perché il business è cambiato completamente, i margini di mercato sono venuti a mancare e il gruppo si è trovato nel 2007-2008 gravato da un debito importante col sistema bancario per circa gli 80-90 milioni di euro, che ha in quell'occasione diciamo ridiscusso col sistema bancario, ma chiaramente che ha schiacciato ogni possibilità di sviluppo, no, di Pininfarina, fino ad arrivare ad oggi con un accordo con gli indiani di Mahindra che fissa una serie di punti che sono sia di natura finanziaria che di natura industriale. Questo è stato un po' il messaggio importante e forte che è venuto fuori dalla conferenza stampa realizzata a Torino dai vertici dei due gruppi, una risposta finanziaria che mette, diciamo, in sicurezza il gruppo, che dà la possibilità a Fininfarina di avere risorse nuove, insomma, da investire, e che dà una risposta anche a quelli che sono definiti due punti critici, i due punti deboli, insomma, il gruppo Fininfarina. Da un lato appunto il tema finanziario, il tema del debito, quindi il tema della liquidità e degli investimenti, e dall'altro il tema della globalità del marchio. Fininfarina è un marchio notissimo, un campione, insomma, del design italiano, non solo nell'auto, storicamente nell'auto. Fininfarina ha collaborato con i più grandi, insomma, produttori di auto, ha creato modelli storici, addirittura 200, insomma, circa 200 Ferrari sono state disegnate da Fininfarina. Quindi è un marchio evocativo nel settore dell'auto, ma è un marchio, insomma, che anche aspira, diciamo, a essere globale. Ecco, la mancanza di globalità è stato considerato proprio uno degli aspetti deboli, i punti deboli del gruppo industriale, che trova una risposta invece in questa parte. Dimmi solo sì o no, ma Indra non ha fatto già sapere come intenderà rilanciare, rivalorizzare Fininfarina? Sì, c'era il CEO del gruppo che ha messo a disposizione, insomma, la formula è sostanzialmente questa: i clienti di Mahindra, che sono circa 800, che sono clienti globali, non soltanto globali come mondo, ma anche come industry, perché Mahindra non si occupa solo di auto, ma una decina di business aperti in 150 paesi. Gli 800 clienti di Mahindra saranno nei prossimi mesi clienti anche di Fininfarina, e i 140-150 clienti di Fininfarina saranno anche clienti di Mahindra. Quindi l'idea è di far diventare questo marchio un marchio globale, sia, ripeto, in termini geografici, ma anche in termini industriali. Si parla anche di real estate, quindi di percorsi assolutamente nuovi, ecco, dal punto di vista industriale. Grazie a Filomena Greco per la spiegazione del motivo per cui Pininfarina ha venduto, e anche che cosa vorrà fare Mahindra di Pininfarina. Capisco la delusione degli azionisti, però in questo caso, adesso non facciamo di tutto nel buon fascio, è ovvio che se l'azionista di riferimento Pininfarina, la famiglia con Pincar, vende a 1,01 euro e poi ci sarà un'offerta pubblica di acquisto, l'azione si adegui. Capisco benissimo la delusione, ma l'azione va ad adeguarsi al prezzo a cui ha venduto l'azionista di riferimento, che era appunto la famiglia. Devo dare ancora due notizie brevissime di mercato. Da un lato Petrobras Transporte ha annullato due contratti per le navi da trasporto di GPL commissionati a Vard, di cui il 55% è di Fincantieri. Si andrà verso una richiesta di risarcimento. E poi invece interessante il rapporto sia di Morgan Stanley che di JP Morgan sul gigante Apple, perché prevedono per la prima volta nel 2016 un calo delle vendite dell'iPhone, e addirittura di quasi il 6%. A pesare sono i prezzi elevati e il tasso di penetrazione sui mercati avanzati. E poi anche JP Morgan dice, insomma, siamo perplessi sulla futura crescita, la catena di produzione mostra segni di iniziale debolezza nel ciclo dell'iPhone 6. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Invece quello di cui non ci facciamo una ragione è quello che sta capitando dopo il decreto del cosiddetto salvataggio delle quattro banche, sia a livello di organismi, di rapporto tra istituzioni, sia a livello politico. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia e per il WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Consideriamo un dovere morale, civile, etico e dunque dovere politico fare la chiarezza massima. Ecco perché diciamo sì alla commissione d'inchiesta che è stata chiesta sul sistema del credito negli ultimi 10 anni. lo dico a nome del governo, lo dico a nome del PD e lo dico alla Leopolda a nome di tanta gente normale. Noi non abbiamo nessuno scheletro nell'armadio e la posizione del governo è molto chiara su questo tema. Siamo stati noi a fare un decreto per ridurre il numero delle banche con le popolari e ci hanno fatto ostruzionismo. Siamo stati noi, senza paura, a dire che occorreva un sistema bancario con meno banche più grosse. E se si è deciso di dare all'Unione Europea tutti i poteri che si sono dati sulla banca, sull'Union Banking, è normale che poi si debba avere e rispettare le regole che ci vengono date. Chi ha sbagliato? Chi ha truffato? Se ci saranno gli estremi, saranno ovviamente individuati coloro i quali hanno truffato, e chi ha sbagliato pagherà. Non ci sono mai stati intoccabili. C'è un punto che voglio dire concludendo, anzi due. Uno umano e uno politico. Quello umano è che chi pensa di strumentalizzare la vita delle persone deve fare pace con se stesso. Ma chi pensa di strumentalizzare la morte delle persone, personalmente mi fa schifo. Ci sono situazioni che vanno cambiate, ci sono responsabilità diffuse, sono responsabilità di chi ha gestito i rapporti con i risparmiatori, magari non fornendo tutte le informazioni. Sono situazioni che verranno affrontate e quindi queste responsabilità diffuse saranno valutate caso per caso, ma saranno presi dei provvedimenti per evitare che queste cose possano di nuovo succedere. Consistenze elevate di prestiti deteriorati comprimono l'offerta di credito per varie ragioni, assorbono risorse e capacità operativa, immobilizzano il capitale bancario in impieghi improduttivi e riducono la redditività delle banche, gravando sulla loro capacità di generare capitale internamente. Questi effetti colpiscono in misura più accentuata le imprese minori, che sono quelle più dipendenti dal credito bancario. Inoltre, la lentezza nel riassorbimento dei prestiti deteriorati impedisce il necessario processo di ristrutturazione del settore delle imprese, nel corso del quale le imprese sane riducono il loro debito e riprendono a investire, mentre le altre escono dal mercato. Quindi creare le condizioni per un rapido smaltimento dei prestiti deteriorati deve essere parte delle misure di politica economica volte a ripristinare le condizioni favorevoli all'occupazione e all'accumulazione. Ogni paese ha la propria lista di azioni da compiere per accelerare questo processo. E i ritardi su questo fronte costituiscono un freno serio alla crescita. Allora, abbiamo ascoltato, avete ascoltato in ordine Renzi alla Leopolda, Padoan alla Leopolda e oggi Mario Draghi, non alla Leopolda, ma a Bologna per i 40 anni di Nomisma. Draghi era più sfumato di Prometeia, scusatemi. Draghi era più sfumato, diceva: attenzione, occorre che questa situazione delle sofferenze, dei crediti non più esigibili venga risolta. Dopo appunto Renzi, Padoan e Draghi, ascolterete adesso da un lato l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Non è una battuta, è vero. Buonasera, Guido. Buonasera, buonasera. Ecco, e anche come promesso già venerdì in una puntata molto concitata in cui abbiamo dovuto anche aprire la linea agli ascoltatori perché obiettivamente la situazione stava sfuggendo di mano, ma non a noi, a chi è deputato di questo, vorrei anche tornare a ringraziare Mario Seminero, che è economista e curatore del blog fastidio.net. Dopo il meteo, la vostra, a Seminero chiederò, insomma, lo spettacolo a cui stiamo assistendo tra Consob, Banca d'Italia e governo, e invece con Guido Gentile l'aspetto, la nota più politica. Ripartiremo dalla dichiarazione del numero 2 della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. 349-238-6666 per WhatsApp e SMS. Focus Economia. A questo punto ci sembra diventato urgente che prodotti come le obbligazioni subordinate ne venga vietata la vendita per legge, perché ci vuole una legge per farlo, al pubblico, allo sportello. Questa è una cosa che noi abbiamo chiesto per un anno intero. in numerosi interventi pubblici, in audizioni parlamentari. Poi la nostra voce a volte è flebile, evidentemente. Allora, io non capisco più una cosa, Seminerio. La Consob oggi, per voce del suo presidente Vegas, fa un'intervista sul Corriere della Sera in cui dice sostanzialmente a noi il governo non ci ha consultato prima del decreto, e ribadisce che ha fatto tutto il possibile. La Banca d'Italia con Ignazio Visco ha ribadito che ha fatto tutto il possibile, hanno operato al loro meglio. Salvatore Rossi, dopo l'intervista, sempre al Corriere, interviene poi dall'Annunziata e dice: chiediamo, la nostra voce è flebile, non ci hanno ascoltato, di levare queste obbligazioni subordinate. A parte il fatto che, da quello che avevo capito io, già la MIFID prevedeva che venissero vendute in un certo modo, ci sono già delle regole, ma tutti si svegliano adesso, e va bene per modo di dire. Ma soprattutto, no, cosa sta capitando? Perché insomma, si può dire, la Consob può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, la Banca d'Italia può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, il governo può dire abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, cioè la colpa di chi è alla fine? Dei risparmiatori? La colpa è del sistema paese, anche se detto così sta già diventando l'ennesima frase fatta. Infatti, l'intervista di Vegas di questa mattina sul Corriere, io, per quanto mi riguarda, assumendomi ovviamente la responsabilità di quello che dico, la definirei null'altro che desolante. Fa parte della robustissima tradizione italiana di dire io non c'ero, se c'ero dormivo, non avete prove contro di me, eccetera eccetera. Dopodiché il problema del sistema paese è che noi abbiamo un sistema creditizio nelle sue varie articolazioni, da quelle più grandi a quelle minute della provincia, no? Il famoso legame col territorio, eccetera eccetera, di cui si alimenta la vulgata del successo italiano, è in profonda sofferenza non da oggi, e questo volume di sofferenze, scusate il gioco di parole, la dice molto lunga, perché a furia di dirci le banche italiane sono sane, noi finiremo direttamente nel bidone della spazzatura, continuando a prenderci in giro in questa maniera. Il discorso è che adesso io non voglio attribuirmi, c'è un eccellente pezzo sul magazine online di Stati Generali scritto da Lorenzo Di Lena, che è un bravissimo, per quanto mi riguarda, giornalista esperto di tematiche bancarie, che spiega un po' come sono andate le cose. In sintesi, enorme livello di sofferenze, insufficiente, drammaticamente insufficiente livello di accantonamenti a rettifica crediti, perché gli azionisti, da quelli molto grandi, le fondazioni, a quelli molto piccoli, cioè i piccoli risparmiatori soci di cooperative, non avevano soldi. Poi l'Unione Europea ha stretto progressivamente la tematica, ha forzato le banche nel percorso accidentato e pieno di mine verso l'Unione Bancaria, ha forzato le banche a riconoscere la realtà, e quindi è successo il panico. È successo che ci sono state emissioni di subordinati negli ultimi due anni, che in alcuni casi, visto che si era definito proprio a livello europeo che non tutti i subordinati erano ugualmente idonei a entrare nel computo del capitale, ecco che è successo il problema, ecco che tutti la vigilanza per certi aspetti si è girata dall'altra parte, e abbiamo avuto questo fenomeno non solo del mis-selling, cioè quindi a volte l'inadeguatezza in emissione rispetto al profilo di rischio del cliente, ma anche il mispricing, cioè vendere titoli che se fossero stati venduti a investitori professionali sarebbero stati eccezionalmente più onerosi che non a venderli al retail. Allora, cerco di deficit di capitale. Allora, cerco di sintetizzare. Sostanzialmente, cosa è successo? Le sofferenze cosa sono? Sono i crediti che una banca ha ma non riuscirà a recuperare. Non è sempre colpa della banca, il sistema ha avuto una botta pazzesca dopo il 2008 e quindi le piccole imprese, sappiamo cosa è successo alla produzione industriale. In alcuni casi è colpa anche della banca, nel senso che se andiamo a guardare la Popolare Etruria o Banca Marche, come hanno prestato i soldi agli amici degli amici per progetti assurdi, è colpa dei manager della banca. Ma non sempre queste sofferenze, anzi, nella maggior parte dei casi sono dovuti a un'economia che peggiora, e quindi chi ti doveva dei soldi non te li ridà. Che cosa succede? In quei casi tu dovresti mettere più fieno in cascina, accantonamenti di capitale, però per far questo devi chiedere agli azionisti di partecipare con i soldi loro. E lei dice, né le fondazioni, i grandi azionisti, né i piccoli azionisti, magari imprenditori, avevano i soldi o volevano mettere i soldi in questi anni. Di conseguenza si portano avanti le cose finché l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea ti chiedono di rimettere a posto questo rapporto tra soldi che non ti entrano, sofferenze e capitale che tu hai in cascina per far fronte a questo. E siccome non tutte le obbligazioni subordinate possono essere utilizzate per questo e non le potevi vendere agli istituzionali perché gli istituzionali sono più furbi, o meglio conoscono meglio quello che gli stai vendendo, non te le comprano a quei livelli, vogliono rendimenti più alti, vale anche per le azioni delle non quotate, che cosa è successo? Si è spinto per venderle al retail, ai consumatori, ai risparmiatori privati, e le autorità di vigilanza hanno fatto finta di non vedere. Ora, fermo restando che questa è la sua ricostruzione, vorrei, e mi interessa, chiudere con Guido Gentili per capire. Guido, però, insomma, qui stiamo assistendo, a mio avviso, per la prima volta a una vera impasse del governo Renzi, che non si può chiudere la Leopolda dicendo noi siamo stati quelli a fare la riforma dei popolari, verissimo. Ma insomma c'è un problema anche di ruolo di un ministro che sta emergendo, l'opposizione lo sfrutta, e per la prima volta uno scontro potente con due istituzioni, soprattutto la Banca d'Italia oltre che la Consob. Guido? Sì, è veramente questa l'occasione in cui si manifestano tante prime volte, tutte quelle che hai ricordato te e anche il braccio di ferro che c'è stato tra la Banca d'Italia ad esempio nei giorni scorsi e la Commissione europea. Sono volate, diciamo, accuse e controaccuse per tutto ciò che non avevamo mai ascoltato, diciamo, nei 30 anni precedenti. Quindi effettivamente siamo a un momento di rottura, diciamo, anche se vogliamo, delle pratiche che sono state seguite, anche se volano anche delle parole rammentabili il quadro politico. A me appassiona, diciamo, tra virgolette, anche questo tema della commissione d'inchiesta, perché si parla della commissione parlamentare d'inchiesta, qualcun altro parla di commissione d'indagine, e ora le parole hanno sempre, diciamo, poi un significato preciso. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ne abbiamo avuto un precedente importante, unico, che è quello a parte un altro alla fine degli anni 50, ma è quello del caso Sindona. Ecco, la commissione d'inchiesta parlamentare è una commissione che ha per costituzione gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, della magistratura, e quindi parliamo di un intervento importante a fronte di casi eccezionali. Certo. Ora, voglio dire, è stato dipinto per tantissimo tempo il fatto che noi abbiamo un sistema solido, migliore di tutti gli altri, eccetera. Insomma, siamo al punto della commissione d'inchiesta? Visto che questa la propone addirittura in prima persona il Premier, e anche la Banca d'Italia si è detta d'accordo. Sono tutti d'accordo. Ecco, questo già, voglio dire, è una cosa che diciamo a me colpisce molto, perché si tratta di vedere come maneggiare questa cosa, perché ovviamente qui parliamo del sistema bancario, parliamo di una possibile crisi di fiducia, insomma. Voglio dire, questo è un tema su cui arriviamo come al solito impreparati, e poi sento continuamente parlare di questo rapporto tra Consob e Banca d'Italia. Vorrei dire che sono 30 anni che noi sentiamo parlare del mancato coordinamento tra Consob e Banca d'Italia, e ogni volta assistiamo allo stesso identico spettacolo. Allora, Guido Gentile, siccome sono in chiusura, volevo capire una cosa, però c'è stata una sottovalutazione del governo, perché a noi sembra palese che stia correndo un po' ai ripari, sia molto seccato anche con l'autorità di vigilanza, insomma il nervosismo, c'è stata una sottovalutazione dell'impatto delle informazioni che gli sono arrivate o no? Assolutamente sì, c'è stata una sottovalutazione e c'è appunto una voglia di rincorrere il problema, che però si rischia di fare peggio, diciamo, e quindi diciamo sarebbe auspicabile un maggiore senso, diciamo, di prudenza su questi temi. E poi vorrei dire che comunque la magistratura è entrata in campo, perché nel caso della Banca Etruria è in campo la magistratura, e quindi qui arriverà anche probabilmente a dover sciogliere il nodo se c'è una responsabilità, ad esempio, che riguarda la famiglia Porto oppure no. Questo, diciamo, mi sembra un dato saliente, e quindi, voglio dire, su questo punto di vista non si può far finta di nulla. Grazie Guido Gentili e Mario Seminerio. Da Sebastiano Barigioni, l'auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.